bimba sognata in preghiera, il cuore che spera vuole a te ritornare. Quando quel dì ti baciai, l'odor dei rosai faccia tutto scorazzare. Rose che sospirate la sera sulla riviera, sulla riviera. Rose, rose d'ogni colore, parlate al cuore, parlate al cuore. Siate il profumo di questa vita mia, siate la nostalgia che non mi lascia più. Rose, e sospirate a sera sulla riviera, sulla riviera. Tutte le rose d'intorno fiorivano quel giorno solamente per me. Oltre alle rose tornato, ma il cuore malato cerca invano di te. Rose, che sospirate a sera sulla riviera, sulla riviera. Rose, rose d'ogni colore, parlate al cuore, parlate al cuore. Siate il profumo di questa vita mia, siate la nostalgia che non mi lascia più.